Reunion. Un romanzo di Dario Vergari. Capitolo 16. Vecchi amici. Lascia che ci parli io per primo. Diossido fece cenno a Mirko di restare in secondo piano dietro di lui. Erano davanti al portone della casa di Anna, in una via infilata nel dedalo di stradine del centro storico. La luce filtrava da sotto l'ingresso, la nera era sicuramente in casa e probabilmente ancora sveglia. Diossido suonò due volte il campanello e tese l'orecchio in attesa di qualche rumore. Dopo alcuni secondi di silenzio udirono la voce della nera chiedere: «Chi è?» «Ciao, Annina, ti disturbo?» disse Diossido nella fessura del portone. Per tutta risposta le chiavi girarono nella serratura e l'entrata si dischiuse. «Oh, Diossido, ciao, no, non mi disturbi, è solo che stavo per andare a letto», rispose Anna con un sorriso nella voce assonnata, allungando la testa fuori per guardare in faccia Diossido. «Da qualche giorno ho un sonno tremendo. Oh mio Dio!» Mirko non aveva resistito alla tentazione di sbirciare da dietro la spalla di Camillo la vecchia amica, ma era stato immediatamente scorto e riconosciuto da Anna, che ora si aggrappava allo stipite della porta con tutte le sue forze, come se dovesse resistere al vento impetuoso di un tornado che minacciava di trascinarla via. «Oh, Dio!» Diossido esitò, non sapendo cosa fare, e Mirko lo superò portandosi davanti alla nera. «Anna, sono io! Sono solo Mirko! Sono il tuo vecchio amico matto, ti ricordi?» Le sorrise, cercando di essere spiritoso, ma in realtà si sentiva terrorizzato da quella reazione eccessiva. Anna lo fissava, continuando a ripetere «Dio!» senza dar segno di aver capito nemmeno una parola. «Ti prego, Mirko, lasciaci un attimo da soli», chiese Diossido a bassa voce. Riviera annuì e si allontanò di qualche passo, portandosi nell'ombra. Udiva Diossido mormorare dolcemente qualcosa ad Anna, ma non riusciva a capire le parole, tanta era l'agitazione che stava provando dentro di lui. Sentì il portone richiudersi e attese l'amico camminando in cerchio per cercare di calmare i battiti del cuore e il respiro affannato. Gli sembrava di avere una mandria di bufali che gli correva sul petto. Camillo restò in casa con Anna per un tempo che a Mirko parve interminabile. Ogni tanto un passante percorreva la via e lui si ritirava ancora di più nell'oscurità. Quella sera non avrebbe sopportato di essere ancora riconosciuto. Finalmente il portone si aprì e ne uscì Diossido. Chiuse in silenzio l'ingresso con cura, scrutò nel buio, vide Mirko e lo informò. «Dorme ora, non è stato facile. Le ho lasciato i Joy Division come sottofondo. Speriamo che non abbia incubi». Mirko si rilassò alla battuta dell'amico. «Hai fatto bene, sono sempre stati i suoi preferiti. I veri incubi li avrò io stanotte». «Benvenuto nel club, allora. Io non riesco a dormire tranquillo da quando abbiamo trovato il secchione». Diossido lasciò cadere il discorso e aggiunse rapidamente: «Andiamo a farci una birra al pub? Credo che ci aiuterà a dormire meglio». «Una? Per me ce ne vorranno almeno 5. Va bene, andiamo a cominciare. Per stasera ho avuto abbastanza emozioni, devo staccare la spina per un po'». «Ho voglia di vedere la Via Lattea. Portami a fare un giro», ordinò Drago al pilota attraverso la radio di bordo. «Quanto possiamo andare lontano?» «Abbiamo un'autonomia di 6.000 chilometri, mio signore». «Avvertimi quando arriviamo a 5.000 e poi vedremo. Nel frattempo segui la notte e fammi vedere più stelle che puoi». Nel momento in cui Mirko e Diossido si sedettero per ordinare le loro birre, Drago osservava dal finestrino le luci di Roma allontanarsi rapidamente. Non aveva idea di dove andare, ma era sicuro che dovunque fosse atterrato, quello sarebbe stato il posto giusto. Prese la chitarra acustica e iniziò a improvvisare una melodia semplice. Si sorprese a desiderare la batteria di Billy e la chitarra di Paolo. Chissà come sarebbe stata una jam session a bordo dell'Hawker. Per un attimo sperò che Mirko tornasse riportando buone notizie dei vecchi amici e che presto si sarebbero potuti riunire tutti per una bella suonata, come ai vecchi tempi, anche se in cuor suo sapeva che quei tempi erano finiti, definitivamente. Fu solo un momento di nostalgia, poi, simili ad aracnidi dinoccolati, le dita sulla chitarra presero a muoversi da sole, come gli capitava sempre nei migliori momenti di creatività, e dimenticandosi di tutto il resto, rimase lì, a suonare, guardando le stelle fuori dall'oblò. Il pontefice era esterrefatto. Sulla scrivania dello studio di Castel Gandolfo gli giungevano notizie da ogni angolo del globo. I cambiamenti stavano avvenendo ad una velocità sorprendente. Il pianeta Terra era un formicaio brulicante di esserini impazziti. Dopo l'eliminazione delle frontiere era stato impossibile frenare gli spostamenti delle masse affamate verso le zone più accoglienti. Lentamente, arrancando su improvvisate carovane o più velocemente, con i mezzi di trasporto più disparati, moltitudini di persone si spostavano da sud a nord, da est a ovest, ridefinendo la geografia stessa. I nuovi comandamenti avevano condizionato la gente rendendola ben disposta ad aiutare chi ne aveva bisogno. Tranne qualche sporadico caso di disaccordo dovuto a una sparuta minoranza non ancora raggiunta dall'effetto God, ognuno trovava il proprio posto e veniva assistito per trovare una sistemazione definitiva. Nel frattempo erano stati predisposti piani per rendere fertili le terre abbandonate o desertiche. Le immense distese di suolo destinate all'allevamento dei bovini da macello venivano gradualmente convertite in coltivazioni di cereali dedicati all'alimentazione umana. I rapporti ricevuti parlavano di amministratori delegati e presidenti di grandi corporazioni che silenziosamente e senza pubblicità mettevano a disposizione palazzi, residenze, interi quartieri a chi non aveva un tetto sulla testa. Era diventato praticamente impossibile trovare barboni nelle strade delle città. Per la prima volta nella storia l'umanità agiva per il bene collettivo invece che per il vantaggio di gruppi separati e in lotta fra di loro. Il pontefice leggeva i rapporti e non riusciva a crederci. Si chiedeva ora come aveva potuto dubitare. Solo la mano di Dio avrebbe potuto cambiare la natura umana. Solo la sua infinita potenza poteva dare una svolta alla storia dell'umanità. Si rallegrò pensando alla prossima riunione con il Dio senza nome. Avrebbe avuto solo buone notizie da portargli, già immaginava le lodi del Dio, benedetto il suo non nome. Anche nella città si vedevano le prime trasformazioni dovute ai nuovi comandamenti. La più vistosa era la metamorfosi di un intero isolato del centro storico. Si trattava di un gruppo di case popolari, costruite alcuni anni prima accanto alle aggraziate costruzioni d'epoca tardo-medievale. Il complesso era stato da sempre percepito dalla popolazione come un corpo estraneo, grondante, bruttezze, squallore da ogni angolo. Il colore marrone della struttura aggiungeva un senso di avvilimento e mestizia che ingrigiva le facce di chi era costretto ad abitarci. L'architetto e gli amministratori cittadini dovevano avere avuto un ottimo motivo per piazzare in pieno centro città quella porcheria che ricordava molto da vicino l'estetica delle scatole da scarpe. L'opinione comune fra i cittadini era che ci fosse stato sotto un notevole giro di mazzette bustarelle, sebbene nessuno fosse mai riuscito a provare niente. Nessuno accettava l'idea che l'ingordigia dei responsabili potesse spingersi così lontano. Ora gli stessi inquilini, sotto l'influenza dell'effetto God, nel tentativo di creare armonia e bellezza, stanchi di vivere nell'orrido, avevano preso vernice e pennelli e si stavano riappropriando dei colori, ravvivando con tinte vivaci quell'angolo di morte estetica. Diossido e Mirko si trovavano a passare di lì mentre andavano a casa del Nero il giorno dopo l'infelice incontro con Anna. Riviera sperava che il Nero sarebbe stato meno soggetto ad incontrollati attacchi emotivi. Si augurava che sarebbe stato più facile avere un dialogo con quel compagno di tante serate di risate, uno di quelli che riusciva sempre a sdrammatizzare ogni cosa e che, se un giorno gli avessero detto che avrebbe visto Mirko come un dio, di sicuro si sarebbe sbellicato dalle risa anche senza avere fumato. E poi si sarebbe fatto una canna, così, tanto per riprendersi. La sua Lambretta rossa e nera era parcheggiata sotto casa, proprio davanti all'aborto architettonico che stava rapidamente assumendo ogni colore dell'arcobaleno. «Bel tentativo, ma non ce la faranno mai a rendere bella questa schifezza», disse Diossido guardando la gente all'opera con pennelli e latte di vernice. «Hai visto però che Drago sta cercando di fare qualcosa di buono?» Mirko non si lasciò sfuggire l'occasione per cercare di ricomporre la frattura fra i suoi due amici. Ma Diossido, al contrario, si irritò. «Ascoltami, io lo conosco quello lì. Lo conosco meglio di te e di lui stesso. Lo conosco talmente bene che lui lo sa e ha paura di me. Perché credi che mi abbia allontanato? Perché, secondo te, non mi ha usato come ha usato il secchione? Pensaci, Mirko. Rifletti un po' e non essere sempre un cazzone, specialmente ora. Non è più il momento, ora». «In effetti tu eri, scusa, sei all'altezza del povero secchione. Drago ha sempre detto che il tuo problema è che pensi troppo. Forse aveva paura che gli creassi qualche complicazione». «E ci credo che gli avrei creato qualche complicazione. Cazzo, ti rendi conto di cosa state facendo?» «Di cambiare questo mondo di merda non me ne dispiace. A me dispiace solo una cosa, di avere coinvolto i miei amici e non aver saputo difendere tutti come ho fatto con te. Ma devi capire, è stato così veloce. Prima ne parlavamo, fantasticavamo, facevamo grandi progetti e discussioni, poi da un giorno all'altro aveva costruito il Devil. E tu non ti sei mai chiesto come esattamente? Quando è stata la prima volta che glielo hai visto usare?» Mirko rise. «Beh, la prima volta lo abbiamo usato in sala prove. Era tarato sull'eccitazione sessuale e mi ricordo benissimo la rossa, dovevi vederla. Anche se il Devil era ancora un prototipo imperfetto, è stato pazzesco». «E non ricordi nient'altro successo proprio il giorno prima?» Mirko ci pensò su un attimo. «No, niente di particolare. Cosa dovrei ricordare?» Diossido sospirò. «Ci devi arrivare da solo e prima o poi ci riuscirai. Dai, lasciamo perdere adesso. Vediamo com'è messo il Nero». Suonò il campanello del citofono che presto gracchiò la familiare voce del Nero. «Chi è?» «Nero, siamo Diossido e...» La voce lo interruppe. «Oi, ciao! Dai, venite su!» Sembrava allegro e tranquillo, il buon vecchio Nero che amava i Joy Division ma odiava la loro estetica e che quindi non ne possedeva neanche un disco. Presero l'ascensore internamente istoriato di scritte a pennarello, molte delle quali opera del Nero. «Boys Don't Cry», «The Sound and Adrian Boland», «Five Leaves Left» e un inequivocabile «Abbasso i fasci». Certe volte aveva persino negato l'ingresso a Drago e Mirko a causa del loro equivoco guardaroba nero e dei loro inquietanti anfibi con punte in metallo. Dalla porta dell'appartamento abitato da Nero usciva l'odore pungente di una canna fumata da poco e di putrefazione birresca. Diossido e Mirko bussarono. Si udì uno strofinio di ciabatte. Poi, con un maglioncino viola a strisce gialle orizzontali, occhi rossissimi e un ampio sorriso con fessura tra gli incisivi, apparve il fratello umano del gatto del Cheshire di Alice. «Ehi raga, stavo proprio per farmene una. se volete approfittarne», disse il nero sorridendogli e voltandosi per tornare nella camera dei suoi giochi. «Cosa vi va di ascoltare? A me la mattina mi dà gusto ascoltare i Damned. Machine Gun Etiquette è un gran disco, vi piace?» Non attese risposta e iniziò a trafficare con la sua notevole collezione di dischi. Diossido e Mirko si guardarono divertiti. Seguirono il nero fino alla stanza che era la sede principale dei suoi passatempi, musica, birra e naturalmente canne. La stanza era spaziosa. Le tapparelle delle finestre perennemente abbassate e i faretti colorati la rendevano simile a una versione psichedelica della Batcaverna. Decine di portacenere mai svuotati da mesi, bicchieri vuoti o con residui di liquidi non più identificabili, lattine accartocciate, bottiglie di ogni tipo e marca di birra, formavano cataste maleodoranti che affascinavano e orripilavano al tempo stesso i numerosi visitatori che Nero riceveva volentieri nella sua tana. Non c'erano sedie su cui potessero accomodarsi, solo cuscini sistemati sulla moquette marrone lungo il perimetro delle uniche due pareti libere da cianfrusaglie. Gli scomodi cuscini piazzati al centro delle emissioni delle casse acustiche erano il luogo deputato all'ascolto ininterrotto di musica. In mezzo a tutto quel degrado spiccava un raffinato impianto stereo, maniacalmente assemblato dal nero con i migliori componenti delle migliori marche. Le luci verdi e rosse dei LED dell'amplificatore danzavano all'unisono con la musica. Non c'era accenno di luce bianca o naturale nella stanza. Diossido e Mirko si sedettero sui cuscini, non senza essersi prima assicurati di posarsi su uno scampolo di stoffa relativamente pulito. Guardarono il nero tirare fuori dalla custodia il long playing originale dei Damned e posarlo sul piatto. «Questa è pura psichedelia, altro che quei mosci dei Floyd, non vi pare, raga?» disse con una risata gutturale. La puntina toccò il solco. La voce di Jack Howard domandò «Ladies and gentlemen, how do?» e le note di Love's Song esplosero dalle casse. La canzone suonava ormai da almeno un minuto e Diossido e Mirko erano rimasti in attesa che Nero si girasse verso di loro. Ma l'amico era ancora immobile, in piedi davanti allo stereo, con il viso rivolto alla parete. Lentamente mosse la mano per abbassare il volume e disse «Diossido?» «Sì, Nero, dimmi!» «Non era mica Dio quello, vero?» Mirko si prese la testa fra le mani. Senza aspettare risposta, Nero continuò «Io non ho infranto nessun comandamento, vero? Sì, mi piace fumare e bere, ma non faccio del male a nessuno, e poi nessun comandamento lo vieta, vero? Posso stare tranquillo, vero? Voglio dire, se lui adesso mi dicesse che devo smettere, allora smetterei immediatamente, però...» Il tono della sua voce si faceva più agitato man mano che parlava. «No, Nero, nessuno ti dice che devi smettere», disse Mirko sconsolato. «Però mi vergogno a farmi vedere in questo stato, non sono certo una bella visione». Sembrava ora di percepire un'incrinatura nella sua voce. «Stai tranquillo, Nero, noi adesso ce ne andiamo», disse Mirko alzandosi. «Sii felice». «Sì, mio signore, io sono sempre felice, sono gli altri che mi rendono infelice, ma io cerco di dimenticare. Learn to forget, come diceva Jim Morrison». Diossido lo interruppe. «Shh, basta ora, non ti agitare. Non hai sentito? Stai tranquillo e sii felice». Uscirono in silenzio dall'appartamento. Il nero era rimasto nella stessa posizione da quando aveva realizzato che Dio era seduto lì. Riviera si rimise il cappellino con visiera e gli occhiali scuri. Cominciava a temere che ormai sarebbe stato costretto ad indossarli per tutta la vita. «Quella merda gli ha fottuto il cervello», disse. «Parli del fumo o di quella cosa che uno che conosciamo sta usando per...» «E dai, Diossido, piantala! Parlo della quantità spropositata di merda che gli si è depositata nel cervello, nei polmoni, nelle vene, persino nell'anima, se esiste. Il Devil non lo ha rincoglionito, a quello ci ha pensato lui da solo. Mi viene quasi voglia di usarlo su di lui per farlo smettere, ma non mi sembra giusto. Ecco la differenza tra te e Drago. Ecco perché di te riesco ancora a fidarmi. Camminarono in silenzio verso il mare, lasciandosi alle spalle l'orrore architettonico e la tristezza per l'amico. Poi, dopo un po', Diossido domandò: «Ma cosa volevi dire che vorresti usarlo su di lui? Per caso ne hai uno?» «Drago mi ha dato la versione portatile da usare in caso di pericolo, sai? Ce la siamo vista brutta una volta. Perché? Ti interessa?» Diossido, lo scienziato, sembrò non avere udito la domanda, assorto com'era nei suoi pensieri. «Stavo pensando, però non so, mi serve tempo. Te lo dirò appena avrò le idee più chiare.» «Ok, come vuoi. Cerca solo di non pensare troppo.» Mirko diede una pacca sulla spalla all'amico, che subito replicò: «Fanculo, Mirko!»